Liberami, padre, di ogni bontà. Dalla medianità degli zingari. Liberami, padre, di ogni bontà. Dal vizio della droga, dal vizio del bere liquori forti. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle ossessioni omosessuali, dalle ossessioni gay. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao, ciao Giuseppe. Allora, questo che hai a fianco, un domani quando tu, Cruciano, arriverai a 80 anni, dovrai piangere per tutto il tempo che tu sei tenuto a fianco. Comunque non puoi nemmeno parlare di questo demente che hai a fianco. Allora, cosa facciamo? Allora, il Parlamento bisogna liberarlo dal PD e da tutto quel marciume di acqua reflua indegna che occupa il Parlamento per mettere le persone di destra. La Boldrini ha comandato quel porco di Zuckerberg di dire che non dobbiamo scrivere la parola negro. Qui c'è il terrore, e il terrore, caro Cruciani, ce l'hai a fianco. Ma io non voglio sapere il motivo per cui tu te lo tieni, quello proprio, quello schifo, quella caterva umana, quel lezzo, quel culo di maiale che hai a fianco. Perché come questi c'è Augias, c'è il porco Augias, e poi io vorrei un appuntamento con il vescovo Saviano, con quel pezzo di merda, parla sempre da solo, come un dio, ma nemmeno Gesù parlava da solo. Gesù parlava davanti agli apostoli e gli apostoli commentavano con lui. Chi è sto porco miserabile? Chi è sto gabbiano di merda? Chi è sto gabbiano di merda? Querelatemi, io devo salvare l'Italia. Querelatemi. Naturalmente. Arrivo, aspettate, arrivo. Miserabili! Parenzo, quando vuoi. Arrivo, aspettate. Allora ragazzi, non sarà il problema mondiale, caro Parenzo, stavo facendo una cosa, scusa. Subito una cosa, perché questa copertina che è stata magistrata insieme da quel criminale del regista alla corte, bene, in 3 minuti, 2 minuti e mezzo di copertina sono stati commessi più reati che in un anno a Gomorra. Cioè, se un magistrato dovesse dire in un anno a Gomorra quanti reati sono stati commessi, tot, in 2 minuti e mezzo di invettiva di Donato da Varese sono stati statisticamente commessi molti più reati che in un anno a Gomorra. No, non dire cazzate, allora, dai. Allora io dico, se in giro c'è un giudice di cui non posso dire il nome, non Zuckerberg, che è un altro. Tal Zuccaro, e adesso avremo l'orgasmo di Crociani, perché se c'è in giro un magistrato, per cortesia, alzi un ditino, apra un fascicolo con sopra scritto Donato da Varese, prenda la copertina di questo criminale di la corte, tal la corte, troverà più reati. Libertà. Forza. Donato, avanti tutta. Chiudi. Avanti tutta. Allora ragazzi, qui oggi c'è da fare un'operazione. Allora, mezza Italia è dalla parte. Certo, non sarà il problema mondiale, d'accordo. Non parliamo di attentati, non parliamo adesso di profughi, eccetera, eccetera. Stiamo parlando. Che cazzo vuole Barisoni? Pure, no, dentro, Barisoni. Pure dentro la trasmissione, per rompere i coglioni. Ah, ma incredibile. Vi facciamo dare due o tre notizie serie. Adesso. Allora, ragazzi, non sarà il problema mondiale, però mezza Italia sta dalla parte del signor Flavio Insinna. Non c'è dubbio. E mezza noi siamo tra Italia, questi. E devo dire la verità, noi siamo tra questi. Assolutamente. E là c'è una metà d'Italia che è contro il signor Insinna. Beh, per un motivo molto semplice. No, contro Striscia, non contro Insinna. Vabbè, ma adesso stai calmo, c'è tutto il tempo. C'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo. Allora, molti rimproverano al signor Insinna, fra poco vi facciamo ascoltare tutto, alcune frasi dette durante la trasmissione Carta Bianca di Rai 3. Allora, ricapitoliamo la situazione. Insinna viene accusato da un fuori onda, anzi non fuori onda, una registrazione che è stata diffusa ieri da Striscia la Notizia, di avere trattato male, viene accusato, ha trattato male alcuni concorrenti, la nana di merda, bisogna prenderla a calci nel basso ventre e rimandarla in onda, qui siamo su Rai 1, eccetera, eccetera. Frasi dette nei confronti dei concorrenti in privato davanti ai suoi autori insieme alla sua redazione. Hanno registrato queste frasi, Striscia la Notizia le ha acquisite e dopo due anni, o comunque sono frasi di due anni fa. C'è da dire che Canale 5 è concorrente diretto del programma che fa Insinna, che fa un sacco di ascolti, quindi gli fanno una guerra quotidiana, e questi audio tirati fuori a distanza di due anni, due fuori onda. Beh, questo mi pare una cosa davvero, davvero, davvero scorretta. Insinna deve diventare cavaliere del lavoro. Fossi nel presidente, non dico della Repubblica perché vedo già, diciamo, fossi nel presidente della Repubblica, darei una medaglia al signor Insinna perché è un cavaliere del lavoro, perché tiene al lavoro che fa, si capisce? Allora, molti rimproverano Insinna di essere andato, di avere due facce, una privata e una pubblica. Quella pubblica è quella che ha mostrato qualche tempo. Ma se intercettassero le telefonate tramite, scusa. Ma sì, ma certo. Tu quante volte hai detto dov'è quel nano di Parenzo? Ma cosa dovrei fare? No, ho detto nano di merda. Ecco, appunto, dici, ma dove sei, nano? Cosa devo fare? Sì, ma no, io in realtà nano non lo uso, però. Sì, no, tante volte hai detto dov'è quel nano di Parenzo? Ma non l'ho mai detto. Ma che cazzo dici? Ma non l'ho mai detto. Ma non è vero, non l'ho mai detto. Ma io dico qualsiasi cosa. Io però, come sai, le cose che dico, diciamo, in redazione, ce le dico anche in pubblico, però c'è questa piccola differenza. Appunto, certo. Questo è il tuo problema. Rispetto che non c'è nessuna differenza tra il privato e il pubblico. Questo è il tuo problema principale. Insomma, magari anche un merito. No, è un problema. È un dato di fatto. Insinna a Carta Bianca. Poi vi facciamo ascoltare. Ci sono due facce. Berlinguer, no? Secondo alcuni, sì. Buona secondo alcuni ci sono due facce. Insinna che parla di umiltà, che parla bisogna stare vicino alle persone povere, eccetera, eccetera. Insinna che insulta i concorrenti di affari tuoi, secondo alcuni. Per me è una cazzata questa roba qua. È una cazzata. È una sciocchezza, sicuramente. Insinna. Io non voglio vivere in questo paese, l'avete detto anche voi. Voglio vivere in un paese gentile. Questo è un paese che spesso non si accorge che umilia le persone. In realtà, secondo alcuni, Insinna ha umiliato i suoi concorrenti. Ragazzi, lo ha fatto in una riunione privata. Ma di cosa stiamo parlando? Io sono con il signor Flavio Insinna a spada tratta. Non c'è dubbio. È come se uno registrasse una conversazione privata, non uno scherzo telefonico. Adesso molti mi diranno, ma come tu sei... Ma per me Striscia Notizia fa benissimo. A me, figuriamoci se dico che Striscia Notizia ha fatto male. Striscia Notizia fa spessissimo questa cosa qua. Dunque sì, non sto giudicando. Colpo basso, inutile, che non aggiunge nulla. Una colpo cosa... basso, ma non lo so. Insinna deve fare il direttore generale. Io sono dalla parte di Insinna. Perché? E se uno, lui dice, per far riuscire bene la mia trasmissione ci vogliono concorrenti diversi da quelli che abbiamo in questo momento. Questi, quelli che abbiamo mandato in onda fanno schifo, secondo lui. Adesso sentiamo alcune cose. Una nana che parla con le mani davanti alla bocca è questa signora Rosi. Questa signora Rosi della Valle d'Aosta. Non possiamo mettere sulla borsa 5 simpatici. Abbiamo preso 5 simpatici di là. Una nana che parla con le mani davanti alla bocca, se no sta muta. Una nana che parla con le mani davanti alla bocca. Capisco che si sente poco, ma chiaramente erano registrazioni. Poi dice bisogna prendere a zappate nel culo, cioè ai, credo, agli autori, eccetera. Sono mosci. Perché cazzo scegliete voi i concorrenti, li devo scegliere io. Colpisci la nana al basso ventre. Non so. Ma ragazzi, ma quando uno fa le riunioni ed è incazzato perché una trasmissione secondo lui non va bene, si ma parla anche in questo modo. Ma come parlate voi? Dai, su. La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e dice adesso tu rientri che giorni, perché è Rai 1, non è Val d'Aosta News di mortacci tua. Questa comunque, se si sentisse bene, sarebbe straordinario. Ma non è Val d'Aosta News. Non è Val d'Aosta News. Questa è Radio 24, è Rai 1 di mortacci tua. Ma certo. Stupendo. Abbiamo preso degli stronzi e una nana di merda. Poi dice: cambiano la costituzione, altrimenti avremo la monarchia. Cioè, bisogna ogni tanto forzare pure i regolamenti. E io voglio scegliere le persone che, no, che fanno riuscire bene tutto. Certo. Ragazzi, è così, dai. Hanno truffato sul referendum costituzionale. Figuriamoci se non posso cambiare un concorrente di un cazzo. Vabbè, di affari tuoi. Non è che Insin è un Zagrebelsky, adesso che non si addentri, diciamo, sui paragoni storici. Non è De Felice, non è uno storico, no? Comunque, molti Melograni. Molti dicono due facce, una privata e una pubblica quando parla degli umili. In privato si scaglia contro i concorrenti, questi sono dementi, perché dice a un certo punto sette dementi, la nana de merda da prendere a calci. Ragazzi, in privato si dice di tutto. Che cazzo volete? Che rimproverate a Insinna? Viva Insinna tutta la vita, dai. Sempre. Allora, De Luca, governatore del mondo, amico mio, io ti voglio bene, ti adoro, sei il numero uno. Sì, che ha fatto oggi? Ha detto una cazzata, devo dire la verità. Con rammarico lo dico con grande rammarico. Si è scagliato contro le droghe, contro le canne. Capisco che hai la tua età, governatore, capisco, hai la tua età. Non sei, come dire, non capisci ogni tanto perché uno si fa la canna. Non è necessario dire quello che hai detto, chi si fa la canna è un imbecille. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente, governatore. Magari tuo figlio si fa le canne, cioè si è fatto le canne. Che poi che significa chi si fa le canne? Questo lo può dire l'amico Gasparri, no? Può dire chi si fa le canne è un imbecille. Sì. No, puoi dire tu che sei il governatore del mondo, dai. Se uscite la sera per andare a fare un po' di pomeriggio e state in mezzo a 10 ragazzi e 9 si fanno la canna o si drogano e uno no, quell'uno è l'unica persona intelligente, gli altri sono 9 imbecilli. Chiaro? Mettetevelo in testa, non abbiate dubbi. Quando è che chiudete, cornuti? La Zanzara. Crucio, come si fa a dar torto a Insinna? Programma di merda con gente di merda. I nani, non c'è canzone oggi più appropriata, caro Parenzo. I nani. Che poi si è scoperto che questa signora Rosi, classificata come nana di merda, in realtà è alta 1,55, per cui proprio nana non è, cioè è, diciamo, ma sì, abbastanza. Era un modo di dire una ma cosa, sì, certo, ragazzi, su quando si fanno delle conversazioni in privato, quando si parla di una trasmissione, si dicono le peggio cose. Cioè, solo noi qui, solo noi trasferiamo esattamente quello che succede nel privato nel pubblico. Corretto. Solo esatto. Noi. Lì ci sono sempre due volti. Uno, quello incazzato che rimprovera gli autori, nani di merda, concorrenti del cazzo, eccetera. Qui in realtà è uguale. È uguale, esatto. È drammaticamente. Quindi tu praticamente stai, come dire, spiegando il famosissimo detto latino: o porte tut scandala e veniant. È opportuno che gli scandali vengano alla luce, lo dico, traduco per quell'imbecille di Savino. Sì, più o meno è così. Ma perché mi hai fatto questo esempio che mai ha mosciato? O porte tut scandala e veniant. Quel nano malefico. Vedi la corte? Vedi com'è criminale? Uno prova a alzare il livello e quell'imbecille, quel criminale. Imbecille, no, imbecille, lo dico con amicizia perché è un grande professionista, per tenere il tono alto della trasmissione. Questo criminale della corte manda l'audietto malefico, perché è un criminale. Allora, malefico. Frase fondamentale di oggi, Lando Buzzanca. Sì. Non metto le mutande da 40 anni. La porcheria. 40 anni senza mutande. Poi io in realtà sono appassionato alla discussione sullo squirting, caro Parenzo. Perché ieri la mia amica Melania Rizzoli ha scritto una lettera al sito Dagospia in cui ha detto che in realtà trattasi solo di urina. E dunque i maschi appassionati a questa cosa si ha ridimensionato questa cosa. Cioè, non vi appassionate troppo a questa roba, perché trattasi di urina. E dunque vuole dire. Quindi chiudiamo l'argomento qui. Sì, si potrebbe chiudere, poi lo riapriremo più tardi. Lo riapriremo più tardi. Però detto il pleaperitivo. Ma sto dottore continua la Ivanka. Scusa, signora, ma sto Ivanka è rimasta Luma. Sì, ma sto dottore. Mentre col nuto Trump li baltito con Al False One. Sole a Lola, invitato aperitivo, signora Ivanka. Sì, però a forza di aperitivi, signora alla fine finisce ubriaco, cioè finisce alcolizzata, amico. Sole, quando sente all'ivo miserabili, intervengo io, invitato, signora Ivanka, perché col nuto Trump, partito. Allora ragazzi, ieri abbiamo trascurato una cosa, cioè Vecchioni che ha dato gli imbecilli a quelli che hanno criticato la manifestazione pro-migranti di Milano. Ha detto troppo poco Vecchioni, bravo. No ragazzi, ma tu sei veramente un razzista, ragione. Lo sai che sei veramente razzista? Sei razzista? Un razzista schifoso. Sei veramente razzista, sì assolutamente. Sei tu il razzista, perché dare degli imbecilli a quelli che criticano la manifestazione di Milano è una roba non da snob, perché sarebbe troppo poco. Ma cosa c'è? Proprio da antidemocratici, Vecchioni, capito? Vecchioni, ma lui i migranti non l'ha mai visto in vita sua, in carne e ossa. Non ha mai visto un migrante in vita sua, probabilmente. Mai visto uno. Ma cosa dici? Secondo me non ne ha mai visto uno, Vecchioni. Beh, perché non doveva riuscire. Erano tutti contro. No, erano tutti contro, erano contro gli imbecilli. Cosa significa? Era contro quelli che pensano che un caso isolato debba rovinare un afflato che c'è da giorni e giorni, da mesi e mesi a Milano, che è meraviglioso. L'afflato di Milano. Ma dai, su. Perfettamente ragione. Dai. Paolo, provincia di Pordenone, dai. Paolo. Pronti? Sì, dimmi. Eccomi qua, scusa, spiegami un attimo questa cosa che Insin ha fatto bene e tu sei dalla sua parte, sì. perché uno in privato può dire quello che vuole, mentre in pubblico fa la faccia che tutti quanti sono buoni, tutti sono bravi, e in realtà, scusa, se c'è la notizia, una volta tanto ho fatto capire che tutta la gente dello spettacolo sono dei pezzi di merda che fanno vedere una faccia che non è quella, scusa. Scusami, allora, quello che si dice all'interno delle redazioni, cosa cazzo c'entra con i pensieri di Insin sulla vita? È la persona! Ma che perché lei non si arrabbia mai sul lavoro? Lei è sempre educato sul lavoro? Perché questo qui che chiama è sempre educato sul lavoro, questo qua. Non gli è mai partita la brocca nel dire, ad esempio, ma che... Sì, figurati, dai. Certo, Parenzo. Io sono sempre educato sul lavoro. Se rispetto le persone, rispetto ovunque. Invece la gente dello spettacolo davanti fanno vedere che sono tutti quanti bravi e buoni, e dietro sono dei pezzi di merda. Questa è la realtà. Eccolo qua, cioè, tu dici che Striscia la Notizia ha svelato il vero Insinna. Questo tu dici. È vero. Perché è vero. Secondo lei nella redazione di Striscia nessuno si arrabbia mai con quella veemenza? Ma dove vive? Ma che dice? Certo, allora, che dice? Parenzo, ipocrita. Parenzo, scusa, posso parlare? Posso parlare? Paolo, ma cazzo, non mi fa parlare. Tu parla, non ti preoccupare, tu parla. Allora ipocrita. Vuol dire che Parenzo, quello che dice davanti ai microfoni è una cosa, ma non quello è vero. No, però scusa, ma che c'entra? Non ha detto i poveri sono dei pezzi di merda, sputo in faccia ai poveri, contraddicendo quello che ha detto per esempio a Rai 3. Ha detto questa trasmissione con questi qua non funziona. Poi è andato a Rai 3, prima era andato a Rai 3, anzi dopo, perché il video è del 2015. Quello che è a dire io sono dalla parte degli umili. Bravo. Cosa cazzo c'entra con quello che in privato davanti ai suoi autori c'entra? Cruzzari, scusa, lui dice che voglio un mondo gentile, e quando poi è a parlare con i suoi collaboratori, nano di merda, brutta stronza, piccola, brutta, schifosa, non sa parlare. Ma scusa, ma dov'è il vero? Siete delle merde! La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Bruciare, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. La Zanzara. David, sei un gabinetto schifoso. Ragazzi, è semplice. se volete essere chiamati da Sgarbi mentre caga sul cesso, o avete prenotato un viaggio in Terra Santa e state bestemmiando tutti perché Molise era più vicino, o volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete far cagare Cruciani nel vostro cesso di casa quando lo cacceranno dalla Pricewaterhouse, o volete prenotare un massaggio romantico al vostro cane, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo al Cagatop. Intanto sulla questione terrorismo islamici attentato interviene anche Magdi Cristiano Allam. Parenzo, cosa può dire secondo te? Prova a immaginare cosa può pronunciare, quale frase può dire il signor Magdi Cristiano Allam. Prova a indovinare, prova a indovinare. Sono dei criminali, che l'Islam è criminale in quanto religione. Senti, se fossimo uno stato di diritto non ci sarebbero le moschee. Addirittura? Sì. Matto, contro la Costituzione. No, che contro la Costituzione? È libertà di culto prevista dalla Costituzione. No, ma che c'entra? Perché non vi informate, ragazzi? Ma ho capito, ma che c'entra con le moschee? Uno può decidere di fare o non farle le moschee, no? È nel nostro diritto decidere se le moschee ci devono. Guarda che ti scateno Donato, guarda che ti scateno Donato, ma cosa vuoi scatenare? Quel poveretto è stato di nuovo ricoverato. Dici che dopo ieri sera è stato ricoverato? Ieri sera, certo, con un aumento della terapia. Se noi fossimo veramente uno stato di diritto che si rispetti, in Italia le moschee non dovrebbero proprio esserci. La presenza delle moschee è già una resa. Ma cosa dice? La stessa presenza di moschee in Italia è già una resa all'Islam. Il fatto che siano addirittura abusive e che comunque al loro interno loro possano praticare il culto significa che non hanno la minima considerazione del nostro stato di diritto. Ci stiamo arrendendo all'Islam, dovremmo invece farci rispettare. Ci stiamo arrendendo. Ma dove le ha lette queste cose? Ma lo sa che nella nostra Costituzione il diritto è tutelato dagli articoli 3, 7, 8, vabbè, 19, non ci fare due 20, coglioni così, 21, con queste robe, dai, 117, non ci fare, del... non ci fare due sa, palle così. Lo sa, dai, ma non è su. Due palle, è la Costituzione italiana che tutela la libertà religiosa. E andate a vedervi e a leggere quegli meravigliosi articoli nella prima parte, l'articolo 3, l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 19, ma che ce l'articolo 20, l'articolo 21. Sulla sono cambiati i tempi, c'è il pericolo dell'Islam. Cambiate la Costituzione allora, ma che cosa stai dicendo? C'è il pericolo dei terroristi che si fanno esplodere. E quindi vai il contro pericolo... la Costituzione? Ma non mi interessa a me la Costituzione, questa se no occupa la Corte interessa. Costituzionale, che me ne frega a me della ogni cittadino dovrebbe essere in prima linea a difendere Grasso, la Costituzione. Il presidente del Senato Grasso, il presidente che ha il grande merito di parlare meno della Boldrini, dunque sicuramente uno che non è così invadente, e fa invadente. Poche cose, dice ognuno poche cose. Interpreta il proprio ruolo istituzionale, ecco, come lui crede. Secondo me lo interpreta benissimo, vabbè, cioè non parla tanto, taglia i nastri, presenza, però recentemente durante la manifestazione di Milano ha detto delle cose che secondo me non stanno in cielo né in terra. Ha detto lo straniero ha il diritto di essere accolto sul territorio italiano. Bravo, secondo me non è vero. Noi decidiamo attraverso le leggi come e quando va accolto. Ha detto una non cosa c'è in più, un ha diritto detto che assoluto. Chi nasce e studia in Italia è italiano. Ma chi lo dice? Queste le leggi lo decidono è le italiano. Leggi. Lo decidono chi le leggi. Nasce e studia non è vero, qui lo è decidono le leggi, basta, non lo decide Grasso. No, non si possono più sopportare stupidaggini su questo tema, non si possono più sentiamo sopportare. Sentiamo Grasso. Siamo qui per difendere lo spirito e la lettera della Costituzione italiana, che riconosce i diritti fondamentali in modo universale e si spinge fino a prevedere che lo straniero al quale si è impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà. Vabbè, ripete la Costituzione, dai, ripete la Costituzione. Ma lo dici come fosse una cosa così, dice, ha preso la carta igienica. No, che noia, ripete, che noia. Ricorda la straordinaria Costituzione italiana che nella prima parte, in modo assolutamente lungimirante, i nostri padri costituenti, tra i quali i comunisti, hanno scritto nero su bianco il tema della libertà religiosa. Mi dispiace che ti annoi la Costituzione della libertà. Che trovo straordinario quello che propone il professore Abbate, il marchese Fulvio Abbate. Fulvio Abbate, che tempo fa propose uno straordinario format. Andare a cagare a casa degli italiani. Hai capito? Cioè, Sgarbi, io farei un format televisivo per portare Sgarbi a cagare in casa di tanti italiani. Ma perché potrebbe accettare di avere un signore? Chiamateci oggi se volete un VIP. Le grandi campagne della Zanzara. Se volete Sgarbi a cagare a casa vostra, chiamateci e noi faremo in modo che accada. Secondo te ci sarà una ripresa di questa campagna anche nel Sole 24 Ore della domenica, nell'inserto culturale? Sarebbe una grande cosa. Il marchese Abbate lo propose nel lontano 2014. Pensa te. Senti. Tele 2 Ruti, Fulvio Abbate, il marchese Fulvio Abbate, una televisione monolocale. Ci piace in questa occasione ribadire il format che avevamo concepito. Vengo a cagare a casa tua. Le persone portate come il pullman di Stranamore, Charles Aznavour. Senti. Di cosa si tratta? È semplice. Tu dici: mi piacerebbe che da me venisse, metti Charles Aznavour, a cagare a casa mia. E noi ti portiamo Charles, lo accompagniamo. Un po' come faceva un tempo il pullman di Stranamore. Vengo a cagare a casa mia. Beh, io lo trovo straordinario, ragazzi. Programma imperdibile. Allora dovete chiamare per dire: voglio che Parenzo venga a cagare a casa mia. Ma io faccio tutte queste cose a casa mia. Io porto con scritto Parenzo. Stupendo. Porto Parenzo con la macchina a cagare a casa vostra. Ma io la faccio benissimo a casa mia. Un grande format, ragazzi. Un grande format. Posso dirti questo: ho grande diffidenza, peraltro, per i bagni degli altri. E quindi non vai mai a cagare nei bagni degli altri? No, tendenzialmente cerco di fare le cose. Cioè, io sempre in piedi, devo dire la verità, in piedi nei bagni, a casa mia, perché in è pulito, piedi, cioè non tocco la cosa, ogni tanto mi metto quasi a contatto con la tavoletta, perché ogni tanto ho schifo anch'io per qualche cosa. Dubito che troveremo tutto questo domani nel giornale. Quello sicuramente no, Sole 24 purtroppo ore. Dubito. Metto a pelo quasi a pelo, cioè quasi a contatto senza toccare la tavoletta, è un'immagine quasi più terribile di quello che ha detto Magdi Cristiano all'AM, è più terribile quello che ha detto all'AM, perché quello viola la Costituzione, è molto peggio, diciamo, rispetto a questa immagine. Tu sai cosa succede in quel caso? Che si sente a un certo punto plof. Bellissimo. Plof. Perché si sente meglio quando parte dall'alto. Perché quando parte dall'alto e lasci anche un po' di spazio tra il tuo sedere e la tavoletta del cesso. Senti proprio plof. Proprio uno studio. Bellissimo. Hai fatto uno studio. Luca da Grosseto, voglio sentire. Luca. Ecco, sentiamo. Luca. Sì, buonasera, sono Luca da Grosseto. Sì, io lo sapevamo. Posso parlare? Sì, prego, ma noi sappiamo. Allora, io ascolto la Zanzara perché è una trasmissione di cultura, e non sto scherzando, ma soprattutto perché è fatta da persone sincere. Sì, va bene. Voi dite quello che pensate e non dite, non recitate mai. Su Rai 1, alle 20:30, primo canale nazionale, ci vogliono persone che, guadagnando milioni di euro, abbiano un atteggiamento un po' più superiore, capito? Perché io quando ascolto... Ma non ho capito, che c'entra? Spiegami. Sono cose diverse. Quello è un programma, di giochi. È un programma di giochi. Ma lo ascolta bambino. Non c'è bisogno, c'è bisogno di grande finzione in quel caso. Scusami, c'è bisogno di grandissima finzione. Assolutamente. Scusami, però, Luca. È un programma generalista. Cioè, ma che vuol dire? Ma sono... Ma e allora? E allora? E allora bisogna... Io mi ricordo Mike Buongiorno, ma voi vi ricordate Mike Buongiorno? Mica era un cretino. Cioè, io voglio dire, ma che c'entra? Scusa, ma non capisco il senso. Magari anche Mike Bongiorno in privato diceva quel pezzo di merda che c'è stato oggi, magari in un'altra epoca usava un altro linguaggio, non lo so, non lo possiamo sapere. Ah, no, magari si arrabbiava molto, magari nel lui. Privato diceva guarda quel coglione di concorrente oggi che era moscio, oppure si incazzava con i suoi autori, con i suoi collaboratori dicendo guarda quel pezzo di merda, quello stronzo, sicuramente lo diceva, non c'erano allora, i telefonini. Il programma non è un programma reale, cioè è finzione, si sta recitando. Ma ragazzi, ma che vuol dire? Non ho capito, ma che cosa ti aspetti? Che il programma dei pacchi, una cosa sono le truffe, una cosa sono le truffe, okay. Una cosa è il fatto che quando Insinna è lì, quando i concorrenti sono i concorrenti, sì, Insinna sta lì, esagerato. Esagerato, faceva il suo lavoro, difendeva il suo prodotto, ma non le è mai capitato sul lavoro di sbroccare in qualche occasione? Ma non facciamo gli ipocriti. Però devo su. Dire la verità: allora, ma la maggior parte degli ascoltatori che chiamano sono tutti contro Insinna, perché dicono: ma per forza, sono la maggioranza, la minoranza rumorosa. Sono la minoranza rumorosa, quelli che chiamano. Ma perché li devi disprezzare così? La gente vede due, la gente non va a notare. Uno che chiama in questa trasmissione è un disturbato mentale. Su questo non c'è mai dubbio, lo si capisce da come. Ma questo senza dubbio. Ma adesso sarà mica gente. Luca è un disturbato. Luca è un disturbato. Ma totalmente, ma secondo te il paese reale è questa roba Luca, qua? Luca, sei disturbato? No, Luca, no, sei... no, io ho un bagno solo in casa però, vedi? Ecco, quindi non posso... Vorresti Parenzo che caga nel tuo bagno? No. Non lo vorresti. C'ha ragione, ecco, in questo dimostri di essere persona sensata. Vabbè, fermo lì, Luca, comunque hai detto una cosa gravissima. Chi chiama in questa trasmissione è un disturbato mentale. Totale. Chiamate e infamate questo qua. Infamatelo questo subito. Qua. Sì, infamatelo questo, che vi tratta come delle merde. No, merde come, vere, come voi. Vi meritate. Non la merda quella che fa plop. Minoranza rumorosa. Fermo minoranza lì. Fermi tutto. Dai, cazzo! Dai, Zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. I will be the greatest president that God ever created. Luciani, Parenzo, ma spiegatemi una cosa. Come fate ad andare in giro senza che nessuno vi pigli ammazzate? Imbecille buffone, ma vattene a fanculo, a buffone, sei un buffone de corte, cretino, stupido. Caro Parenzo, ti leggo questo articolo. Foto chi ce l'aveva questo illuminato? Con te. Cresciuto alla scuola mitico, di Einaudi. È il mitico romanesco, camionista, che grande nemico di Parenzo. Ma ha studiato alla scuola di Benedetto Croce, secondo non te? C'è bisogno, non c'è bisogno, non è necessario. Allora, foto e vino nel padiglione di Piano. Tra Aix-en-Provence e il parco del Luberon. In Francia, tra... e i vigneti della cantina Chateau Lacoste ha aperto il padiglione della fotografia firmato Renzo Piano, un piccolo gioiello dalla duplice funzione: esporre fotografie e sculture e conservare il vino, inserito in uno sito d'eccezione dove arte, architettura, produzione vinicola e paesaggio si integrano. La piccola architettura di appena 285 metri quadrati, piccola architettura, si incuna nella vallata scavata fino alla profondità di 6 metri. Bravo, a caratterizzare la nuova architettura è il tetto in tessuto fissato a sottili archi metallici. Ne viene fuori un susseguirsi di piegature che riprendono il ritmo e la scansione dei filari delle viti che circondano l'edificio. Si accede attraverso uno stretto corridoio formato dai muri in calcestruzzo. Bellissimo. Intorno alla luminosa galleria, ben nascosti, ci sono gli spazi per la conservazione del vino. Scusi, signor Piano, ma potrebbe recarsi ogni tanto? Potrebbe recarsi, signor Piano, ogni tanto, dico ogni tanto, potrebbe recarsi oltre che in Provenza, anche al Senato, dove lei ha collezionato 11 presenze? 11 presenze? Aspetta, che mi rompono i coglioni, aspetta. Sì? A qualche minuto. No, scusi, chi è? Scusi? Ad 2A. La chiamiamo per l'aggiornamento delle tariffe di luce e gas. Perché non paga. Ha qualche minuto da dedicarmi. E non paga. Lei è già il nostro cliente. Quindi sì. Ha la possibilità, dato sì. Che il cliente è in servizio di tutela, sì. Di avere il nuovo piano tariffario a mercato libero di A2A. Si chiama sì. Bonus A2A. Sì, però scusi un attimo. Scusi, in questo momento sono, io il bonus. Sono in bagno, scusi. E che faccio? La richiamo? No, ma sono in bagno, mi sto pulendo, scusi. Perché devi dire? Grazie a lei. No, ma mi sto pulendo. Ah, andiamo avanti. Io devo, avanti. Prima o poi, devo convincere questi a non rompermi più i coglioni. Beh, devo convincere modo, questi. Secondo me. A non questo rompermi secondo più me i è coglioni. Un metodo. Massimo, provincia di Venezia. Ripeto, il signor Piano, ogni tanto, avendo collezionato 11 presenze su oltre 16.000 votazioni al Senato da quando è stato nominato senatore a vita, parentesi, cancellare i senatori a vita, potrebbe recarsi ogni tanto al Senato invece magari di andare a Aix-en-Provence a inaugurare i suoi nuovi studi fotografici, le mostre, chi più ne ha più ne metta. Ogni tanto una seduta in più. Non lo abbiamo nominato senatore a vita per fare gli studi di architettura, per dare il suo stipendio a sei giovani architetti. Lo abbiamo nominato nel mondo. Con i porta soldi nostri senatore porta. A vita per sedersi ogni tanto, per porre il suo deretano, il suo nobile deretano sugli scranni del Senato e ogni tanto, dico ogni tanto, pigiare il bottone, rendersi conto di quello che accade in Parlamento. Ogni tanto, dico io, ogni tanto, non chiediamo molto, non chiediamo molto. Solo che ogni volta che ha pigiato il bottone, fino adesso, ci è costato, abbiamo fatto i calcoli, circa 85-86 mila euro. Ogni volta che è andato ha fatto tac, 86 mila. Beh, mi sembra un po' troppo, amico mio. Così, detto con grande rispetto, con grande rispetto per le autorità architettoniche, civili, politiche, militari e culturali. Cioè, Massimo, provincia di Arezzo, dai. Ciao Cruciani, sono Massimo da Chioggia. Massimo provincia da Chioggia. Di Venezia. Senta, sì, lo sappiamo, una roba. Sì, dimmi. Io ho sentito un podcast e la trasmissione perché non posso seguirla tutti i giorni di pomeriggio. Sì, ma non si preoccupi, il podcast va benissimo. No, l'ho seguito in podcast sì. E la trasmissione di lunedì. Sì, va bene, vai Massimo, dimmi. Ho sentito Parenzo che difendeva i diritti acquisiti di quei senatori che dei vitalizi. Sì, Parenzo difende anche questo. Sì, ho fatto, diciamo, una riflessione più complessa, ma una comunque riflessione più complessa. No, ma guarda, mi sono come Lotti. Come Lotti, solo che non avevo credito sul cellulare. Sì, sì, perché tu sei, perché scusa, perché tu sei Massimo, perché tu sei un po' subito, sì. Aspetta, Massimo. No, è partito in quarto ormai. Aspetta un attimo, cerca di ascoltarmi. Tu sei un uomo del popolo, cioè sei un proletario, sei un operaio tutta la vita sono stato. Esatto, sostanzialmente sei quasi, detto con grande rispetto, sei classificabile come un morto di fame, cioè ma nel senso buono. No, ma nel senso buono del termine, perché non mi sento molto di fame, ho sempre lavorato. No, ma nel senso buono, nel senso non buono. Non mi è mai mancato da mangiare. No, ma nel senso buono del termine, cioè sei uno che appartiene alle classi. Volevo chiedere a Parenzo come si fa a difendere gli indifendibili di un senatore che ha fatto una settimana. Bravo. Bravo. No, no, ma vedi, voglio, colgo l'occasione, compagno operaio, per dirlo a te e a tutte le altre compagne e compagni che sono Parenzo, all'ascolto. Io ho lavorato 35 anni. Ma lo so, anni, quindi ti voglio dire, 800 euro. Hai ragione. Ma tu capisci capisco che di fronte la tua a Massimo rabbia. Che prende 800 euro. Hai ragione, e hai ragione. Tu difendi i vitalizi di gente. No, non ho difeso che è stata il vitalizio. Una settimana, ma restituiscano tutti i quattrini. Ho detto semplicemente che siccome quelle lì sono fatte con vecchie leggi, ma sarebbe giusto, però molte di quelle persone lì magari hanno come unica pensione quel vecchio vitalizio calcolato con regole sbagliate. Ma chi se ne frega? Allora io mi sono permesso di dire per non, no, per non andare capisce Massimo, tu questi no, ragionamenti Massimo complessi questi ragionamenti complesso. Complessi volevo, non li capisce. Non è questo il problema, è che io percepivo 30 lui euro ha ragione. Sulla pensione perché sono orfano di padre, cioè, certo. Orfano di guerra che ma mi dispiace ma lui ha ragione nel merito, cioè lui deve avere di più di pensione. Un operaio anche lui che andava a pescare qua in mare. Ma lui deve avere di più di pensione, questo ascoltatore ha ragione. Sono stati tolti dalla Fornero perché non era un diritto acquisito, sì, però, evidentemente mio padre è rimasto. Massimo, hai ragione perfettamente ed è giusto che tu sia incazzato perché c'è gente. Soprattutto con Parenzo che difende sempre questi personaggi. No, ma io non difendo questi personaggi, amico mio, davvero. Io voglio dirti questo: primo, tu devi avere di più di pensione. Ma che vuol dire? Ma non gli dire queste cose ridicole. Ma che... No, ma è così. Ma, è indecoroso che uno prenda una pensione di 800 euro al mese. Questo è il primo punto. Sono stati tolti 30 euro dalla vergognoso che percepivo della pensione. Questa è una vera vergogna. Questa è una vera vergogna. Ho capito, ma non puoi difendere quelli che per una settimana in Parlamento hanno 2000 euro di pensione. È una vergogna. Ma non difendo quello, ho detto un'altra cosa. Hai ragione. Ma ragazzi, ma non si possono difendere questi. No, questi sono dei privilegiati. Non fatevi abbindolare dal giovane Trump di Radio 24. Perché che hai uno con i capelli gialli, l'altro con i capelli unti, neri e sporchi. Non fatevi abbindolare. Ho cambiato bandiera. No, bravo Massimo. Un applauso a Massimo. Un applauso. Ciao a tutti. No, ma non devi tornare del buon senso. Torna con noi. Ti dovrebbero denunciare. La Zanzara. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. E togliti quei cazzo di anelli che c'hai alle dita, che mi sembri un rom, Cruciani. Camicia slacciata, polsini slacciati, sei proprio un rom. Ma che roba è? Ma sei impazzito? Cioè, questi, gli anelli sono stupendi, altro che Rom. I Rom hanno la ferraglia alle dita, cioè, è roba d'oro. Ciao. Io la roba d'oro non la metto mai, è una cosa di una cafonaggine estrema. Loro, ma non loro però è terribile. Loro il è terribile. Look del Lord Wellington, ma chi te l'ha detto? Quindi... Ma anche se gli anelli sono meravigliosi, cioè, sono qualcosa di stupendo. Gli uomini con gli anelli non li sopporti. Adesso non sopporti gli uomini con gli anelli. Tu, sì, siamo arrivati. Facciamo. Non sopporti gli uomini con gli anelli. Parezzo, due punti. No. Non sopporto gli uomini con gli anelli. Ti sanno un po' di froceria, secondo te? O no, questo non c'entra niente. Ti sanno di cafonaggine, di cafonaggine. Sì, cafonaggine assoluto. Uomini con gli anelli, quegli anelli, una roba dai. Allora ragazzi, la nana di Insinna, noi diciamo nana nel senso buono del termine ovviamente, no? La nana di Insinna si chiama Rosy Siracusa ed è un abitante della Valle d'Aosta, diciamo così, non vogliamo rivelare nulla di più. Pronto? Sì, signora Rosy? Buonasera, qui Radio 24, salve. Salve. Salve, buonasera. Io non so se lei sa quello che sta succedendo intorno alla trasmissione di Insinna. Sì, sì, sì. Come si sente? Ma io preferirei non parlarne di... No, voglio capire come si sente. È una cosa che già sapevo o l'ho saputo per la prima volta in queste ore? No, io ho saputo ieri per la prima volta, ho visto ieri. Ha visto ieri? Cioè lei quando fece quella trasmissione sono passati mi sembra 2 anni, no, se non sbaglio? Sì, più o meno, sì. Cioè 2 anni sul momento, non sapeva niente? Cioè quelle robe che ha detto Insinna, no. Non le ha dette davanti a lei? No, non le ha dette davanti a me, Dunque lei non sapeva assolutamente nulla? No, io fino a ieri no. Quando ha saputo, quando ha letto, ha visto, probabilmente ha sentito di essere stata chiamata nana dal signor Insinna, cosa ha pensato? Io ci sono rimasta malissimo. Molto non male? Non mi aspettavo. Certo, io non mi aspettavo una cosa del genere. No, ma la capisco, io sono Parenzo, a me mi chiamano sempre nano qui in genere. Si sente offesa per questa cosa? Certamente che sì. Si sente offesa, ma vuole addirittura denunciare, fare cose di questo tipo? Probabilmente sì. Ma se non si era accorta di nulla fino a oggi, che le frega? Ma che cos'è che l'ha colpita di più? La parola nana oppure la parola successivamente la frase due cazzotti nel basso ventre, torna, non stiamo a... A me tutto il discorso mi ha dato fastidio. A me non è piaciuto semplicemente essere offesa in questo modo pubblicamente. Io mi sento offesa da quello che... le parole che sono state dette. Scusi, una curiosità, ma lei quanto è alta? Magari si può, no? Si può capire se lui ha detto nana così per modo di dire oppure lei è veramente molto bassa. Adesso io il termine nana ovviamente è un termine che può essere offensivo. Può essere offensivo, io sono alta 1,55. 1,55. Oggi lei che pensa del signor Insinna? Oggi, dopo aver sentito quella... Io ho detto sempre, con me è stato sempre cortese, non ha mai avuto queste reazioni davanti a me, non l'ha mai fatte, io non posso dire una cosa del genere. Sì. È chiaro che però questa registrazione c'è, esiste, sì. Si riferiva a me, sì. E quindi quello che penso è questo. Che ha due facce, che Insinna ha due facce, diciamo. Ha due facce, sì, sicuramente ce le ha due facce. C'è una pubblica e poi nel privato dice le peggio cose, diciamo. Nel privato pensa quello che vuole. Scusi un attimo, ma lei pensa che Striscia la Notizia abbia fatto bene a mandare in onda quella registrazione? Io non so, io guardi, non so nemmeno dove l'hanno presa la registrazione. Quindi che abbia fatto bene, che non abbia fatto bene. No, ma secondo lei, ha fatto bene per scoprire, diciamo, che cosa c'è dietro, ma cosa scoperto, dietro Flavianzino, oppure no? Striscia la Notizia lavora così da sempre e quindi io non mi sento né di giudicare loro, io dico semplicemente che al momento, ad oggi, io mi sento offesa. Sì. Da chi? Da uno, dall'altro, non mi interessa. Ma si deve sentire offesa da Striscia, però. Non da Insinna, da Striscia la Notizia si deve sentire offesa. Lei si sente offesa da Insinna. No, Striscia la Notizia ha fatto il suo lavoro, perché ognuno difende. Ho capito, ma a distanza, no, mi permetta, da nano a nana, a distanza di 2 anni, diciamo, no? A distanza di 2 anni, di un fatto che lei manco sapeva, che quindi non l'ha ferita lì per lì, perché manco conosceva il fatto. Però adesso sì, un momento, il nano parla. Hanno rispolverato un audio preso in fuori onda di 2 anni fa. Cioè, capisci? Non è che se la può prendere con Insinna, che magari in un momento che gli giravano le balle per la diretta ha detto questa, cioè, ha fatto lei questa non battuta. Le non le giustifica queste frasi di Insinna in nessun modo? No, assolutamente no. Noi siamo amici, è lui che mi può insultare in questo modo, no. Lui comunque pubblicamente davanti ai concorrenti non si comporta, non ha mai, perché Striscia sostiene che quella roba lì è stata pronunciata anche davanti al pubblico, non è vero? Guardi, quando si è chiusa la puntata, noi concorrenti siamo andati via, perché ci mandano via, e quello che succede dopo noi non lo sappiamo. La RAI come si è comportata? Lei magari vuole portare in tribunale anche la RAI? No, io la RAI non l'ho sentita. Nessuno fino adesso si è fatto sentire? Nessuno fino adesso si è fatto sentire. Va bene. I suoi parenti come hanno reagito di fronte a questa cosa? Ecco, sì. Sono arrabbiati come lei, diciamo? Ma certamente, sono delusi, soprattutto perché credevano in Sinna, lo vedevano come un personaggio veramente di cui ci si potesse fidare. Cioè uno buono, no. Uno buono. Sembrava, diciamo, sembrava di sì. Ma è uno buono? Ma secondo lei dovrebbe continuare? Ma è uno buono, ma tutti in fase di incazzatura. Appunto. È chiaro che... Però c'è modo e modo. Io mi incazzo con gli autori, non me la prendo con la persona, con le persone normali, con la gente, con i concorrenti. Mi incavolo con chi mi importa a fare quelle cose. Ma infatti lui era allora, arrabbiato con i suoi autori, evidentemente. Con i suoi autori si può arrabbiare quanto e come vuole, ma non mette in mezzo me, la mia faccia e la mia professionalità. Scusi signora, quando parla dei dementi Insinna, lei si riferisce anche a voi, diciamo, a quelli che secondo lui... No, eravamo lì in 10. Cioè quelli che non sarebbero secondo lui andati bene, diciamo, no? Che non avrebbero fatto la performance che lui si aspettava. Ma non siamo attori, non siamo persone, non siamo personaggi pubblici che possiamo sostenere una cosa del genere. Sì. C'è anche l'emozione, c'è anche la paura, c'è qualsiasi cosa in mezzo da mettere in ballo. Ma secondo lei... Non siamo attori, allora se voleva una cosa del genere, se avesse voluto una cosa del genere, chiamava degli attori, avrebbe chiamato gente così, che sapeva anche reagire all'emozione del momento e non se la prendeva con noi. Secondo lei può continuare a condurre in televisione Insinna dopo quello che è successo? No. No, per me no. Ma perché? Chiaramente. Perché? Ma perché lei, secondo lei... Ma lo sto chiedendo, perché? Perché non può continuare? Perché io personalmente ho perso la fiducia in un personaggio così. Ma che fiducia ha perso? E come no? No, glielo chiedo con tenerezza, che fiducia ha perso, scusi, non ho capito. Lei che mestiere fa, signora? Io sono una informatrice del farmaco. Lei pensa che potrà essere anche danneggiata da quello che è stato detto? Ma chiaramente, io è da stamattina che ricevo anche telefonate da colleghi, telefonate da persone che conosco, e chiaramente la mia faccia si è visto, gli insulti pubblici sono stati sentiti. Ma glielo dica Striscia la Notizia, però. Ma io lo dirò a chi voglio. No, no, ma lei dice che comunque... No, quindi voglio capire, ma anche Striscia vuole querelare o no? Io al momento, guardi, non so cosa devo fare, non so cosa voglio fare. Non so se querelare Striscia in sì, neppure la RAI. Va bene, signora, grazie, arrivederci, grazie, molto gentile. Grazie a lei. Arrivederci. Grazie molto. La si porta di là, la si colpisce al bastonetto e dice adesso tu mi entri che giorno, perché è Rai 1, non è Val d'Aosta News di mortacci tua. Allora ragazzi, è incazzata come una biscia perché è stata chiamata nana e Parenzo, chiaramente noi siamo dalla parte di Insinna, però totalmente, le persone, le, perché sono cose dette in privato, perché quando uno è incazzato può trattare male anche le persone quando queste persone non sono presenti. Trovo un colpo basso. Però, vabbè, d'accordo, una porcheria. Che striscia tu dici. La notizia fa, sì, vabbè, però striscia la notizia, no, fa il suo mestiere, diciamo la verità. No, ma in questo caso sono non concorrenti è che ha fatto di Insinna, sono concorrenti. Ecco, bravo, questa è la ragione vera. Bravo. No, però, sono dei concorrenti, ragazzi, diretti. Le persone, però, non vanno troppo per il sottile. Tu pensi che le persone facciano tutti questi ragionamenti? Le persone sentono Insinna pronunciare, ma sì, le persone dicono questo. Ti faccio qua un altro esempio brevissimo: se ascoltassero le telefonate che avvengono quotidianamente dalle redazioni dei giornali o delle televisioni, ad esempio, per quanto mi riguarda, quando c'è un terribile attentato, una strage, o prendiamo un terremoto, no? La prima cosa che in genere si dice all'inviato che è sul posto, ma ce le hai le immagini, che ascoltate, decontestualizzate, sembrano di un cinismo estremo, no? Sì, cioè, sì. Vabbè, la prima non è la stessa cosa, dai. Eh no, è la stessa, perché se tu dici ma le hai le immagini di questi morti, le abbiamo le immagini, quello dice no, guarda, sono andato in ritardo, ma cioè, come cazzo in ritardo, voglio i morti, figura capito? Di quello che dicono, cioè, dietro dalla vostra parte, no? Dietro no, dalla ma vostra... adesso no, ma ce l'hai quei rombe di merda, ce l'hai quei rombe di merda, questo non lo so, ci stanno. Ma io parlo per quelli che conosco io. Ci sono i negri collegati. Allora, il negro ce l'hai lì pronto, il negro? Il negro sul banano, ce l'hai? No, ma per dirti che c'è un cinismo di fondo che riguarda però il tuo lavoro, quello che stai facendo, che non vuol dire denigrare quel che è successo o prendere in giro, non c'entra nulla. Questo Agostino, Milano, Agostino, vai. Che Agostino, mi frega. Non mi senti da Agostino, vai. Eccolo qua, buonasera. Dimmi, Agostino, dimmi. Niente di bello si prepara. Allora, se Insinna ha chiamato quella nana, Parenzo, tutte le sere dovrebbe far arrestare tutti. È lucido, vedi che è lucido alla fine. Parenzo, tutte le sere lo chiamano nano e non dice un cazzo. È lucido. No, ma infatti io dico... Vabbè, nano, allora, nano... Dopo che hai detto sta cosa, Costino, non ho capito. Niente, perché tutte le sere, Cruciani... C'è i bagni del sole 24 ore sporchi. Tutte le sere va a cagare, c'è i bagni sporchi. Tutte le sere facendo la zanzara. Totalmente. Dice, oi, senti, che c'ho i bagni sporchi e va a cagare nei bagni dei vicini. Questo è fatto. Dico, guarda, questo è fatto totalmente. Mi sono rotti i coglioni. Noi abbiamo un'impresa di pulizie, le mando due persone e gliele faccio pulire io. Ma dove lavori tu? Agostino, dove lavori? Non ho capito, dove lavori? Noi abbiamo un'impresa di servizi a Milano. Ma chi se ne frega, scusa? Ma che sei ubriaco? Che hai bevuto? No, che non hai fatto? Sono ubriaco. Te sei fatto una ubriaco. Canna, che hai fatto? No, sono lucido. Ma pulisci anche i cessi tu, Agostino? Sì, per voi quello è altro. Dico, perché tutte le sere va a cagare nei bagni sporchi. Questo vuole lavoro, vuole. La trasmissione. Aspetta, Agostino, aspetta un attimo. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Siamo il top! Siamo il top! Ma va su! La zanzara! Le 5 regole per chiamare la zanzara. La radio spenta, non usare le cuffie, non usare viva voce, mettersi sotto un buon segnale e l'ultima, la più importante, il telefono attaccato alla bocca. Se no non si sente niente, nulla, chiaro? Parenzo, dopo la schienata ti abbiamo cacciato fuori, noi della maggioranza silenziosa ti abbiamo cacciato fuori, non sei dei nostri. Perché tu sei riccione, tu sei, querelami, merda, querelami, tu sei riccione come Macron, come Macron, come Macron. Effettivamente ti piace, come dice Macron. Sì, è stupendo. Come Macron, come Macron. Mi piace, lo trovo straordinario questo, questa cosa dialettale della pronuncia di Macron, ma non lo so fare. Però è meraviglioso. Sai, fammi sentire un attimo. Come Macron. Ma poi che vuol dire, come se fosse una presa in fama, come Macron. Sì. Stupendo. Allora ragazzi, poi uno dice con chi che ce si incazza, con me? Con te ovviamente. Ah, naturalmente. Sì. Uno poi dice che si incazza, no? Abbiamo provato a contattare nei giorni scorsi la segreteria di Renzo Piano. La segreteria di Renzo c'è Piano. Da fare, dai. Sì, d'accordo, però uno dice c'ha una segretaria al Senato che risponde, no? In momenti diversissimi della giornata, momenti diversissimi la mattina, l'ora di pranzo, il pomeriggio, eccetera, nessuno Nessuno. Ma io dico, una segretaria, la segreteria per dire scusi signor Piano, ci può dire perché lei ha fatto solamente non so quante votazioni, 11 votazioni? Nessuno. Deve dire a te. Un silenzio al paese, portare... sono soldi anche tuoi. Guarda, quella. A me questa cosa mi fa incazzare, io non ho nulla contro Renzo l'Italia Piano. L'Italia nel mondo sia una cosa meravigliosa perché è una delle più belle facce, dei più bei nomi spendibili e allora, al mondo. Quindi. E che vuol dire? Quindi dobbiamo essere anche orgogliosi che sia senatore a vita, che ma lui peraltro non voleva. Perché? Io non perché sono orgoglioso di nessuno. È un onorifico senatore a vita, non è che deve stare lì a schissare il button. E allora non facesse il senatore a vita? E allora non facesse il senatore a vita? Lo hanno insignito di questo incarico. E quindi lui parteciperà alle votazioni più importanti. Ma allora, no, non partecipa nessuno. 11 su 16.000. Caro David, si dimetterà. Questo palazzo qui è un palazzo straordinario dove si lavora benissimo. Ecco. È un palazzo, no, ma lo dico perché lui sicuramente è un architetto straordinario. Ma cosa ci azzecca, come avrebbe detto il mitologico Di Pietro, con il senatore a vita? Uno doveva dire: scusi, non ho il tempo. Sono un grande architetto, sono uno dei più grandi architetti al mondo, non ho il tempo necessario per fare un mestiere molto chiaro che è quello di senatore, cioè occuparsi di leggi, di legislazione, cioè non è un simbolo il senatore, altrimenti se fosse un simbolo sarebbe gratis. Cioè, allora, gratis va bene, poi nomi penso anche che lui 50... abbia, come tu sai, ha dato il no, suo... ma l'abbiamo detto, ha dato il suo stipendio a Sierk, ma che c'entra, sono a sempre soldi, architetti, ma chi se ne frega, ha fatto anche una bella opera. No, grazie Renzo Piano, grazie perché ci hai dato uno straordinario esempio di civismo. Ma che civismo, girando dai, il tuo emolumento a sei architetti precari. Comunque, sentiamo... e portando il meglio dell'Italia nel mondo. Quindi sentiamo, grazie. Sentiamo, non è mai in ufficio e questo era abbastanza chiaro, ma soprattutto non c'è mai nessuno che risponde. Senato, prego. Sì, buonasera. Desidero parlare per favore con la segreteria del senatore Renzo Piano. Centralino, guardi, è tornato qui, non rispondono. La ringrazio, magari cosa dice? Provo più tardi. Ma, sì, può riprovare. Buonasera al Senato. Sì, buonasera. Vorrei parlare cortesemente con la segreteria del senatore Renzo Piano, grazie. Bene, attenda. Non rispondono. Lei pensa che più tardi ho possibilità di trovare qualcuno? Non le so dire perché non abbiamo informazioni a riguardo. Fin quale ora si può chiamare, signora? Non glielo so dire. Senato, buonasera. Sì, buonasera. Desidero parlare con la segreteria del senatore Renzo Piano. Un istante. Grazie. Non risponde l'interno in questo momento. Non risponde mai perché avevo già chiamato. Vabbè, proveremo di nuovo magari domani. Senato, prego. Sì, buongiorno. Volevo parlare per cortesia con la segreteria del senatore Renzo Piano. Sì. Non rispondono. Ragazzi, guarda, è incredibile, eh. Cioè, quando mi hanno detto, abbiamo provato a chiamare, detto, metti insieme le telefonate, ho detto, perché è clamoroso. Cioè, non risponde manco la segretaria, non c'è nessuno, è un ufficio fantasma. E paghiamo noi, ma uno non si può. Ma uno non si deve incazzare di fronte a queste cose, no? Non ma si deve, sì, cioè, ma secondo te, no, molto. Uno non si deve incazzare. Vabbè, io sarò populista, sarò. Un po' sì. Sì, sarò, capito, un demago. Quello che abbiamo dici tu. Abbiamo fatto un'inchiesta. Ma che inchiesta? Non una cosa semplice. Nessuno, vabbè, d'accordo, non allora per te, se ti sta nessuno. Bene così. Mandate senti, lì le telecamere dalla vostra parte, fate un collegamento sotto alla sede del no, Senato dove poi... c'è l'ufficio del signor Piano. Porta. Giuseppe Cremona, vai. Anzi, c'era Agostino prima. Agostino, che volevi dire ancora su sti cessi? Che sei? Tu pulisci i cessi personalmente? Sì, lo facciamo per ecco, mettere. Ma come fai a pulire? Questo è interessante, Agostino, scusa. Come fai tu, cioè, tu ogni tanto con le tue mani, chiaramente con dei guanti, con degli attrezzi del mestiere... No, no, senza guanti. Come cesso, senza guanti? Come il senza guanti? Cesso di un'azienda e il faccio... Come senza, ma come senza la, guanti? Scusa, no, come fai? Questo non va bene. No, Agostino, come fai a pulire la 626? Come fai sulla sicurezza sul lavoro? No, non c'entra la legge 626. La 626 ci vuole. Ma chi se ne frega? Che sei? Allora, se uno sta lavorando no, e c'ha paura di andare a cagare in un bagno, dove sta lavorando? Perché un altro dovrebbe andare. Vabbè, ma quello lasci perdere, sono affari nostri. Ma però incuriosisce il fatto che non vengano rispettate le normali regole di sicurezza sul lavoro, la 626, denunciamo immediatamente. con i guanti e non iniziare Parenzo a denunciare. No, ma scusa, che c'entra? Dove sei impazzito? Denuncia tutti, denuncia Agostino, Parenzo. Usi i guanti quando tu pulisci i cessi? Sì, ma hai detto di no prima? Sì, usiamo i guanti, come no? Come hai detto di no, che ogni tanto pulisci senza... No, come no, usiamo i guanti, usiamo, scherzavo. Scherzavo, non mi sembrava che scherzassi troppo, non mi sembrava. Speriamo. No, no, no, va bene, no, Giuseppe no, da Cremona, vai Giuseppe, vai. Giuseppe, buonasera. Dimmi, dimmi. Io sono un medico, volevo fare una domanda a Parenzo. Eccoci, buonasera. Buonasera, visto che io visito molti musulmani, sì. Volevo sentire il suo parere sul fatto che, prima di tutto, il più delle volte richiedono delle donne. Non ho capito, il più delle volte? Richiedono delle donne, medico. Pretendono. Pretendono di essere visitate da donne, diciamo. Donne. Ma dipende che lei fa il medico. Che tipo di medico è lei, scusi? Io radiologo. Radiologo, beh, radiologo effettivamente è un po' strano. Non ci vedo nulla di male. Beh, no, ha ragione Giuseppe. No, se te, no, se no, sei in Italia, ti becchi il radiologo che ti capita. Bravo. Ti becchi il radiologo che ti capita. Non puoi rompere i coglioni. No, ma io non ritengo una questione di. No, ma ha ragione Giuseppe. Il ginecologo è diverso. Il ginecologo sarebbe diverso. Ma lo stesso, sai. No, il ginecologo, io posso capire. Il ginecologo che una donna voglia farsi visitare, a prescindere dalla religione, si voglia fare visitare da una donna. Ci sono donne che preferiscono uomini, donne che preferiscono le donne, insomma, non c'è una regola. No, ma se una scegliere col sistema per ma io penso che però, se scusami, una donna... Giuseppe, cerchiamo di capirci bene, soprattutto di sentirci, scandalo, di sentirci bene. Un'altra cosa importante. Sì, ma mettiti in collegamento meglio, sennò non capisco dal punto di vista proprio dell'audio. Sì. Adesso mi senti? Sì, sentiamo. Ma io, ad esempio, l'esame prostatico vorrei che lo facesse un uomo, non una donna. Il ecco, marito tutto qua. Pretende quindi di essere presente alla visita. Sì, però scusami, e Giuseppe, vuoi togliere quel cazzo di viva voce o di auricolare che hai? No, ti prego, no, te ne prego, no. Ti scongiuro, vabbè, ti scongiuro. Non tolto perché ti conosco, però sono proprio forse in un posto dove non prendo tantissimo. Adesso mi senti? Sì, ti sento. Allora Giuseppe, dimmi una cosa. Pretendono gli uomini, i mariti? Allora, pretendono gli uomini di entrare. E questo, nella deontologia medica, io ho delle domande. Ragazzi, richiamate sto Giuseppe, vi prego. Non resisto. Giampiero da Milano. Richiamate Giuseppe, che è interessante sta roba. Giampiero da Milano, vai. Giampiero. Pronto? Dimmi. Eccoci qua. Ciao. Perché questo si sente perfettamente e l'altro no? Sta cosa mi fa incazzare a me. Giampiero, so che è normale, però Giampiero, vai. Allora, ho chiamato perché per vari motivi, a dire la verità. Io mi piacerebbe conferire con Parenzo, ma sarebbe la prima volta in realtà che conferisco con una persona che è cieca per molti argomenti. Io sono un imprenditore, per cui conosco e batto la terra, la terra e le strade tutti i giorni, perché ho bisogno di fare fatturato per portare a casa la pagnotta. Allora? Il Manifesto, che è un giornale che Parenzo stima moltissimo e che è evidente che è un giornale di sinistra. Non lo leggi mai. Lo leggevo negli anni passati. Ma Giampiero, che non stiamo al comizio qua, vai. No, nessun comizio. Il Manifesto, che è l'espressione di una parte politica, che è la sinistra, si comporta in questo modo. Cosa fa? Ha dei fornitori, quando arriva ad un certo livello non paga più, chiude bottega, si chiama poi dopo Il Manifesto SCRL, adesso non ricordo come ha cambiato, ma chi me ne frega a me? No, ma questa è la filosofia di tutta la sinistra, perché in ugual modo... Ma lei sta bene? Io sto benissimo. Cioè la filosofia della sinistra è quella di non pagare i fornitori, questa stupidaggine qua, sta dicendo. Ma perché che i sindacati prendano dei lavoratori a nero è un segreto, hanno fatto migliaia di servizi di Striscia Notizia e chi lo e fa deve essere vabbè, allora Allora sto dicendo che la signora Norma Rangeri, mi sembra che si chiami, però ragazzi, di che vogliamo parlare? Andiamo al sodo, dai, su. Cappiello, che è il suo liquidatore, ma chi se ne frega? Prego? Ma di cosa stai parlando? Scusa. Ma chi se ne frega? No, non conosco la storia. Se mi fate parlare. Ma ho capito, ma qui non è che possiamo stare a raccontare una storia per 20 minuti. Giampiero, dai, ma di che parliamo? Sono 20 secondi. Se mi non sono 20 secondi. Di cosa vuoi parlare, Giampiero? Voglio parlare di uno: del fatto che il Manifesto è l'espressione della sinistra più tradizionalista e allora? I cittadini. Uno, due, ma che frega, i grandi gruppi industriali come la Fiat, ad esempio, che se ne sono andati all'estero, alla fin fine, dulcis in fundo, la moglie dell'amministratore delegato di una grandissima, prestigiosissima azienda italiana mi deve dare 100.000 euro. A me, alla mia azienda, non a me, alla mia azienda. Ma chi è quel? Fai nome e cognome. Chi è che ti deve dare 100.000 non euro? Non posso, perché ho appena depositato il 700. Tu telefoni per raccontare. Scusa, Giampiero, telefona per raccontare i cazzi suoi. Per raccontare i cazzi suoi che noi non conosciamo. Esatto. E in più manco vuole fare nomi e cognomi. Ma che cazzo vuoi? Ma sei impazzito, sei? Cioè, chiami, vuoi raccontare i cazzi tuoi, fatti tuoi con il manifesto. Con un procedimento che appena. Ma chi se ne frega? Fai nomi e cognomi se sono persone conosciute, se hai il coraggio. Allora, altrimenti vai in tribunale e risolvi le tue cose. Ma che cazzo vuoi da noi? Ma io non volevo niente. Ma allora che racconti cose che non. No, comunque, veramente hai chiamato tu e ti abbiamo richiamato. Ultimo argomento. Siamo chiari su immigrati, questo. Immigrati. Ora passa gli immigrati, ma vai a fare in culo, va. Fermi, certo. Pubblicità, vai a fare in culo. Ma senza tutto, solo culo niente, capito? Sì, questo l'ho capito. C'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo niente. Per una notte romantica. Culo niente. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Capito? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh. Vai con la notte romantica. Ah, ah, ah. Ma quanto è brava la Cina! Sì, solo culo niente, capito? Nell'arte della. Ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Manina. Non rispondono. La zanzara. Buongiorno, ma che stai a fare sveglia storia? Io pensavo che te ti alzavi alle 4, andavi in di lì dove? In viale Monterosso e dopo 2-3 ore di cazzate ritornavi a casa, sei già sveglio alle 8.53? Io sto a partire ora col furgone sperando che mi scoppino altre gomme, sperando che ne incontro altri gay. Gli va bene così a Parenzo? Devi anche capire la situazione, scusa. Sto a tribolà. Sto alzando un furgone per cambiare una ruota, uno me lo vuole smanettare, no cazzo. Questo era un messaggio che ho ricevuto questa mattina, l'altra mattina, alle 8.50 da Luca da Perugia. Ma tu perché ricevi questi messaggi da sta senti, gente? Senti. E poi perché li ascolti? Continua. È finita da un bel po', Cocco. Pensa che da stamattina dalle 7 che sono in giro, finirò stasera alle 8 di lavorare per 40 euro, ne spendo 20 per magnà. Te dimmi quando è cominciata, caro Peppe. No, di tali brandi, che so italiano, non so nero, non so una risorsa, capito? Lavoro 16 ore per 20 euro. Di che tornassi a fare le canzoni, tali brandi, invece che spara cazzate in TV, dai. Te che c'hai il potere di poterglielo di. Stamme bene. E continuate sempre così, anche se ultimamente, dai, si sta passando un pochino il livello, ma. Oh, che si può fare? Senza zanzara non ci si può sta. Il bello che lo dice lui, capito? Dice il livello, esatto, si sta abbassando. Luca, comunque siamo con te. Siamo con te, gente che lavora quotidianamente, gente che lavora, che prende il furgone per andare a portare non so che cosa in giro per l'Italia, in giro per l'Umbria, non lo so. È un accento che mi piace, quello umbro, vicino al mio cuore. Luca, all'assalto. Ogni tanto fai qualche collegamento con tua nonna, che è la numero uno, dai, me lo ricordo il collegamento con tua nonna, mitico. Fermi tutti, fermi. Miserabili. La zanzara. Sono andato a una conferenza dove parlava una manager della Pricewaterhouse e quando ha chiesto se c'erano domande le volevo chiedere: ma scusi, ma lei lo sa che Cruciani viene a cagare nel vostro bagno? Perché non l'ha chiesto? Non ha avuto il coraggio di chiedere alla manager questa cosa qua fondamentale. Magari la manager mi avrebbe impedito di entrare in quei bagni. Io voglio dire a questi signori che trattano i bilanci, che io rispetto profondamente per il lavoro che fanno i tizi della Price, che finché i nostri bagni saranno più sporchi, io faccio 4 metri e vado a cagare negli altri bagni. Chiaro? Lo farò sempre, lo farò sempre. Mettete le barriere, mettete i badge, come si dicono, per entrare, mettete, li costringerò a mettere un sistema per entrare. Ti voglio leggere una cosa che mi arriva da un signore che si chiama Marco. Sì. Vuoi finalmente mostrare la sincerità e la trasparenza delle quali ti vanti ogni 2x3 dichiarando finalmente che difendi Insinna soltanto perché siete amici, senza allucinare motivazioni ideologiche? Aspetta, che mal si reggono in piedi. lo hai anche ospitato ai microfoni tempo fa. A parte che ospitare i microfoni non significa essere sì, amici, esatto. Voglio precisare a questo cretino. Bravo. Fosse stato un altro, l'avresti lapidato. Allora, amico mio, io non ho sentito una sola volta in vita mia Insinna per telefono l'anno scorso, era giugno dell'anno scorso. Una sola volta in vita mia, non l'ho mai incontrato. Non siamo amici, non siamo amici, ma non lo dico con disprezzo, ma veramente non siamo amici. Punto e basta. Ho pochissimi amici, me ne sbatto del futuro di Insinna, cioè ne sbatto nel senso che non è che lo voglio lo voglio sull'astrico. Ma non è una tua preoccupazione. Non è una mia preoccupazione, io giudico quello che vedo, esatto. E quello che sento. A secondo le mie idee, mi posso sbagliare ovviamente, ma qui amicizie, non amicizie non c'entro niente. Certo, su alcune persone magari posso essere più indulgente, per esempio lo Sgarbone, ogni tanto magari sono indulgente perché sono affascinato dal suo essere pazzo, sono affascinato dalla sua follia, dal suo essere contro tutti, dal suo cagare ripreso dalle telecamere. Giuseppe da Cremona era il medico di prima, però. Giuseppe, allora io non ho capito bene, queste musulmane che vengono da te. Allora, sì, allora ti spiego. Prima di tutto, il più delle volte pretendono una donna. Vabbè, ma questo non c'è nulla di male. Non è legale, no, perché nel sistema sanitario. Ma questo fa il radiologo. Che cazzo vuoi una donna? Comunque, non c'è nulla di male, andrebbero adeguate le cose anche a questo. Che non mi sembra una richiesta così folle. Non puoi scendere. Sì, sono d'accordo, ma non mi sembra una cosa così, una richiesta così folle. Poi, seconda cosa, il marito pretende di essere sempre presente. Nella deontologia medica, io devo fare delle domande a volte personali, che se c'è presente il marito o un parente. Ma scusa, ma mandalo via questo qua, mandalo via. Esatto. Allora, poi che cosa pretendono poi queste? Poi, secondo, io faccio anche le ecografie, mi scoprono un centimetro di pancia e io non riesco a lavorare perché ho bisogno di quasi tutta la pancia. E il marito, lei non parla, il marito la comanda a occhi, a occhiali. Cioè, non ho capito, spiegami bene questa cosa qua. Il marito gli ordina cosa deve fare, perché io guardo, perché ho fatto il militare, guardo con la coda dell'occhio, il marito con gli occhi gli dice quello che deve fare. Vabbè, amico mio, ma se tu, se tu la devi visitare in qualche modo, la devi visitare, punto e basta. Certo. Ma poi fai il radiologo, problema, che devi visitare, quel radiologo? Un pezzo di pancia, mi aprono un centimetro, poi io mi sono rifiutato, sono andati dal direttore sanitario a dire che queste cose non si fanno. Quindi di voi c'è una cosa. No, ma ha ragione Giuseppe. Vieni al Servizio Sanitario Nazionale. Vieni al Servizio Sanitario, non rompi i coglioni. Esatto. Non rompi i coglioni. Scusa, ma che modo di ragionare? E ti fai visitare come visitano tutti. Se un medico ti deve aprire il pancino, amica mia col velo, amica mia muslim, amica mia musulmana, ti fai aprire il pancino dal medico italiano che non ti vuole infilare il ditino dentro la tua tonza, non ti vuole violare, non ti vuole fare arrapare, non vuole abusare di te, non vuole toccarti, è un medico, dunque non rompi i coglioni. Ma perché devi dire così? Non ho capito, ma scusami, mi sembra un'esigenza non così folle da rispettare. Cioè, non ma mi io pare... sono un medico, sono una persona asettica, io devo fare il mio lavoro. Ho capito, ma io adesso dico una cosa che mi sembra molto semplice, cioè io credo che possa essere anche considerato anche un diritto quello di avere un medico donna. Ha ragione Giuseppe. Se tu paghi, vai nel privato, fai quello che ti pare. Se vai in un ospedale pubblico e ti cambi il medico, hanno richiesto, ma insomma ci sono tante dottoresse che magari sono disponibili anche a farlo e non mi sembra un problema. Ecco, però struttura non ci sono. Per cui, visto che è accreditata, se vieni da noi, accetti quelli che ci sono. Ma ha ragione Giuseppe, dai, su, si trova in imbarazzo lui stesso perché deve avere a che fare con persone fuori di Cotenna, dai. L'ultima, per fare la tiroide, che è un pezzettino di collo, mi apre il velo solo un centimetro. Ma quanti casi saranno questi qua, ma mi sembra di stare veramente dalla vostra parte. È uno alla settimana. Vabbè, ma scusa, ma questo fa il medico, amico mio, ti racconta delle cose, sono normali queste cose. Hai fatto bene, Giuseppe. Questo è inconcepibile, perché io sono una persona asettica, sono 36 anni che faccio il medico, che mi sia davanti una donna, un uomo non me ne frega niente. Io devo essere messo nelle condizioni di fare il mio lavoro al meglio possibile. Ma hai perfettamente ragione. Altrimenti ti denunciano. Hanno rotto i coglioni. Eccolo quando è con Salvini che è intervenuto. Ma non c'entra niente. Al massimo è noi con Cruciani. Ma è noi con Cruciani, con Salvini si sovrappongono le liste. assolutamente, perché noi saremo indipendenti. Saremo indipendenti. Saremo una lista. Intanto? Beh, saremo una lista indipendente. Apartitica, come dici. Sì, Anfame. Anfame non è male. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao, grazie, ciao. Tipi da Zanzara, vai con la sigla, vai. Tipi da Zanzara. Aveva ragione Mariella da Trieste. A Trieste vogliono dare sconti e bonus per chi possiede animali. Croccantini gratis a chi non se lo può permettere. Vergogna, prima gli umani, poi gli animali. Mariella. Perché io dovrei pagare cani e gatti, che poi questi cani, brava, sì, anche brava, questo devo dire, hanno più amore per i cani che non per i migranti, brava cara, cazzo c'è, basta con i migranti che non ne posso più. Beh, no, adesso signora però non butta tutto, non mi rovini tutto, basta, ho detto. Non mi, si occupi del suo, si occupi degli animali, si occupi del suo, signora, entrano nei supermercati sti cani, i cani non gli immigrati, tutto, che sappiamo benissimo cosa fanno. Lei è di una cattiveria. Lei è di una cattiveria, questa signora. Nonnina, questa signora, nonnina, Maria, è di una, con questa sua voce, è di una perfidia, di una ferocia. Senza no, pari. No, perché mica non è finita là. Perché l'altro giorno sul nostro giornale era scritto un articolo a caratteri cubitali che sì, diceva sì, che volevano dare un bonus ai proprietari di cani sì, e gatti. Sì. Con i soldi nostri. Io non sì, ho né cani né gatti e non voglio dare nessun bonus. Brava, io metterei delle multe esagerate sì, su queste cacche di cani. Molto e bene, le pisce no, dappertutto, non ne posso più. Ma questa parla come Capanna, incredibile, il Capanna femminile, è straordinario. Io manderei un camion di Pantegana, una grande azione proletaria presso l'imprenditrice Brambilla, ex o forse attuale, che cazzo ride? Mariella da Trieste, dai Mariella, vai. Allora, state a sentire, io volevo parlare sì, degli animali, sì, di questa sì, fobia degli animali. In che senso, volevo scusa, dare un suggerimento alla Brambilla, sì, perché a Trieste sì, hanno messo sotto gli alberi un sacco di trappole per quelle per i ratti topastri alias Pantegane. Sì. Hanno fatto benissimo, hanno fatto. Hanno fatto benissimo, certamente, ma io avrei una proposta da fare, portare sì, tutte queste Pantegane a casa della Brambilla. Questa è molto buona, come idea. È molto buona questa tanto, idea, è un'idea molto un pir brava, e mandare tutte le Pantegane mio, a casa della Brambilla. Come lotta e questa, mettessi a dormire. No, ma politici, però signora, mettiamoci d'accordo. Lei è una simpatica e anche abbastanza educata nonnina di Trieste. Ma perché nonnina? Perché ascolta questa trasmissione che è volgare? Senti, Lorenzo, basta, ecco questa storia. No, appunto, ma voglio dire, lo dico con affetto. Di immigrati, basta, ne abbiamo le scatole piene. Ecco. Ascolti la musica classica su Radio 3, perché ascolta? No, oppure no, il palinsesto di Radio 24 in altre ore della giornata, perché, nonna? Perché signora, non è per lei sta trasmissione, ma lei è una nonnina no, di Trieste. No, per me, nella la città di Joyce, guardi, di Svevo, di Italo. Che mi diverti di più in assoluto, nome della RAI, che oggi hanno anche litigato, hanno rotto il consiglio di amministrazione, se ne sono andati per quelle schifezze che fanno. È stupendo. Ha visto la RAI? Sa tutto. Ecco. Come abbiamo saputo? La zanzara, mi zanzaro tutte le sere. Tipi da Zanzara. Non rispondono. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento la Zanzara. Non rispondono. Finalmente, grazie a Naika Rivelli, ho capito perché qualche mese fa mia moglie è tornata a casa con ben due Oral B, dicendo erano in offerta, uno magari lo usi te, io non l'ho mai usato. Beppe, dopo la trasmissione di ieri sera ho fatto un sondaggio con le mie amiche, su 10 su WhatsApp mi hanno risposto, 8 usano l'Oral B. Propongo Oral B Maxi, siamo al top. Comunque io vi seguo perché voglio sapere tutti questi termini sessuali che possono aiutare la convivenza. Allora Mattia da Roma, vai Mattia. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi Mattia, dimmi. Mi scuso un attimo con David perché devo chiedere una cosa a te, Giuseppe. Lui sì, sicuramente si impressionerà per quello che io chiedo. Io mi impressiono. No, David. Se, ma casomai lo sai, abbandona il telefono, lo dà al Filippino. Sì, vabbè, però chiedo scusa preventivamente. Vabbè, non c'è bisogno, chiedere scusa è una cosa orribile preventivamente. Già chiedere scusa. Dottore ha preventivamente abbandonato locali Ladio 24 e si è legato. Saluto Dottore. Allora Dottore è partito, uscito, è andato con signora Ivanka Trump, perché col nuto signore biondo Trump, ma perché lo chiami cornuto? Air Force One, tornato Stati Uniti d'America. Dottore fa aperitivo con signora Ivanka. Vabbè Mattia, di che dicevi allora, che volevi dirmi? Allora mi collego ai vari argomenti, sì, sulla TVC, che te vai ai bagni. TVC si chiama Price Waterhouse. Vabbè, sì, allora sì. Mattia, forza, dai, sii veloce, però. Dai, mia, tu. Che lentezza. Allora, te vai solamente per sbrigare i tuoi bisogni o qualche volta hai sbrigato anche i tuoi impulsi sessuali nei bagni della PVC? Amico mio, confermo, amico dottore, mio. È uscito. Confermo, dottore, è uscito. Amico mio, vuoi sapere troppo dalla vita? Vuoi sapere troppo? Allora, ti posso un'altra prossimi, cosa? Prossimi step, prossime rivelazioni, non si può dire tutto insieme, tutto insieme. Vabbè. La mia risposta oggi è no. Poi vedremo, poi vedremo. Ciao Mattia, ciao. No, non mi puoi chiedere che mi ha rotto il cazzo, ciao. Ciao. Giovanni Torino, vai. Pronto? Ma chi è? Quello di ieri, questo qua, quello che mi insultava. Pronto? Ieri. Sì, quello che mi insultava. Sì, Giovanni, dimmi. Allora, ascolta, intanto io per ieri ti voglio chiedere scusa perché io non uso questo linguaggio, in genere mi è proprio venuto fuori così, ma perché? Perché ti è uscito fuori così? Perché? Perché tu sei una persona che le persone le porti a fare questo. Allora tu, secondo me, io la mia opinione su... Ma mi hai detto che sono un pezzo di merda. Allora, sbagliato. Non ho sbagliato. Forse allora pentiti, inginocchiati. Ma lei, inginocchiati, no. Inginocchiati, ti chiedo scusa, umile signore. Ti chiedo scusa con umiltà. Signore Massimo, signore Massimo. Però ascolta una cosa, no? Però, dai, dimmi che vuoi, dai, veloce allora, che vuoi, dai. Questa trasmissione, i tuoi discorsi per me, sì, non sono un discorso da giornalista laureato, sono un discorso da persona comune, sono luoghi comuni, discorsi senza una logica. Senza una logica, amico mio, mai rotto, mai fatto, già, mai già annoiato, mi hai annoiato profondamente. Mi hai annoiato, ciao Giovanni, mi hai annoiato, ciao, mi hai annoiato. Vogliamo sentire quello che ha detto Buzzanca nel programma, poi lo chiamiamo? Sentiamo. Quello sulle mutande, là nel programma di Rai 2, Sì. Sono 40 anni che non metto le mutande. Io quando mi sono sposato, ho detto, Lucia, ti dispiace se io vengo senza mutande? Dice, no, non mi dispiace. Ah! Chiamiamo Landone, ci deve confessare tutto. Una vita senza mutande. Sì. Lando? Sì. Qui la zanzara, come stai? Bene. Lando! Signor Buzzanca. Che grande performance in questo programma, Lando. Sei sempre tra i numeri uno, diciamo la verità. Insomma, sempre il merlo maschio, sei sempre il merlo maschio, Sempre al top assoluto. Senti, ma questa storia delle mutande, spiegacela bene questa storia delle mutande. La voglio spiegata nei dettagli, caro Lando. Perché io non ho mai, non porto orologi, non porto cose perché mi danno fastidio. È come se fossero cose fuori, sono vere cose che danno fastidio, ma io non li mando, non voglio, io camminerei. No, non ho capito, cioè tu non hai, da quando è che non metti le mutande? Da quando avevo 10 o 12 anni, non mi ricordo bene. Ma perché le consideri un impiccio? No, ma te l'ho detto, me li sento pesante, non ho orologio, non ho niente. Ma metti dei boxer, ma come fai? Scusa, non voglio fare. Ma io mica mi faccio vedere che non sono, che non ho. Scusa, quando metti jeans, quando metti dei pantaloni, non ti dà fastidio avere il pisello a contatto? No, anzi, lo è più libero. Davvero ti senti più libero? Cioè, non ti senti un po' più sporco? Mi sento più libero. No, sporco perché? Anzi, io cambio sempre, cambio jeans, come si chiamano? Cosa? Ah, i pantaloni? I pantaloni. Vabbè, quello. Ogni giorno. E il bidet lo fai bene? Cioè, ti pulisci bene le parti intime oppure no? Ma se continua, sì, straordinariamente bene. Perché di solito queste cose qui, io per esempio mi faccio, non sempre mi pulisco a fondo, ogni tanto resto con i tarzanelli, no, sai? No, io mi pulito sempre bello, libero, più leggero sento. Ti senti più leggero, ma tua moglie. Ecco, ma scusi, professore, ma non sarebbe meglio mettersi dei boxer? No, per carità, assolutamente. No, ma perché? Ma io sto bene così, perché devo fare? Ma perché è una porcheria, signor Buzzanca, se lo lasci dire con affetto. No, è una porcheria, ma se che c'entra? Io cammino, mica cammino senza. Ma no, ma in generale è una porcheria, è antigenico. No, no. Ma che è igienico? Ma che stai dicendo? È antigenico, landone mio, è antigenico. No, ma che è antigenico? Dai, è una porcheria, fatelo dire. Mi lavo continuamente, a volte spesso, a spesso due volte al giorno, sì. Per cui sono contento, e perché poi mi cambio i pantaloni ogni giorno. Ma quante volte vai al bagno a fare la cacca? Ma che porcheria. Ma che te ne frega questo? Ma è interessante anche questo. Hai detto che col kiwi vai meglio di corpo. Col kiwi, sì. Sì. Usi spesso, cioè mangi spesso il kiwi perché sei lì in questo modo. No, io finisco il pranzo con il kiwi. Sì, in modo che ti puoi liberare subito. No, subito, l'indomani mi libero. Ti liberi subito. Senti, ma a proposito, sei sempre un amante del cunnilingus? Sì. Sempre, Ma sta a vedere come tratti. Cioè, come tratti, diciamo, l'organo sessuale femminile. Perché... Sì, ma ormai da tempo ti dedichi praticamente solo al cunnilingus. Sì, però si trovano delle altre cose. Cioè, riesci ancora un po' a trombare alla tua età? Sì. Bah, ragazzi, questa è una grande notizia. Ma aiutato da qualche pillolino oppure no? No, ma niente. Non ho mai preso niente. Niente? Solo che muovo l'organo. Sì. Buono, l'organo in un modo che diventa importante. Ah, cioè, tutta una questione, cioè, ma prima che arriva, diciamo, ad una no, sua... devi avere un organo bene, un organo giusto, un organo, no? Ma tu, organino non fai un cavolo. No, certo, ma il tuo quanti centimetri è, si può sapere? No, non, queste cose sono non sono... Però è notevole, si può dire... È una persona riservata, si può dire che si può dire che è notevole. Non è notevole, no, sta bene. Sopra la media. Sopra la media. Senti, ma le giapponesi come le hai trovate? Perché è un popolo affascinante. Brutte? Brutte. Brutti. Sono meglio gli uomini. Meglio gli uomini. Vabbè, a te gli uomini non sono mai interessati. No, non me ne frego un cavolo. Però sono, che vuol dire? Però guardandoli... Certo. Le donne sono brutte. E poi sembrano tutte uguali. Beh, questo è vero, sì, questo è vero. Ma tu sei mai stato con una giapponese? Cioè, mai trombato con una giapponese? No, mai. Mai. E non ti è proprio venuto in mente? Per fare con tre cinesi. Una alla volta, però. Non insieme? No, l'ho lasciato perdere. Vabbè, con una però l'hai fatto? Con una cinese? No. Mai. Ma tu hai mai fatto cose strane, orge, cose a tre, eccetera? No. Io sono io e lei e basta. Uno, one to one, io, diciamo. Ecco, domanda finale, caro Lando. Tu ormai hai una media sessuale che si può dire una volta al mese, una volta ogni due mesi. Quant'è che riesci a... Ma che sei matto? Di più? Una volta... Di più? Ma certo, perché sei matto? E che ne una so? Una volta al mese ti ammazzi, ti butti dalla... Una volta a settimana, quanto trombi? Ma figura. A seconda. Una settimana può essere anche quattro volte. Ma figurati se ce la fa, dai, ma che dite? Ma dai. Però ci sono delle settimane che non fai un cavolo. Lo squirting, sai cos'è? No. Beh, amico, ma come hai fatto a perderti questa cosa? Quell'eiaculazione femminile prorompente si chiama squirting, amico mio, squirting. No, no, no. per carità, una cosa così orrenda. Dicono che sia urina, dicono che sia urina. Mamma mia, dai. Ma che stupenda, eh. Ma che stupenda. Che incontro tra titani. Bravo, bravo. Siamo animali pure noi, ma non siamo. Ma cos'è che ti piace di più nel sesso? Cos'è che ti piace di più? Tutto. Ti abbraccio. Ciao Lando, ragazzi. Ti abbraccio. Ciao. Saluti, caro. Ciao, numero uno, sempre ciao. Numero uno. Landone Buzzanca, Landone, non sa cos'è lo squirting. Hai capito? C'è sempre, ragazzi, da imparare. C'è sempre da imparare. Alessio da Pavia, vai Alessio, vai. Alessio da Pavia. Ciao, Alessio. Ciao, volevo salutare Parenzio. Parenzo. Non importa. Sì, che Parenzio, Parenzo, come cazzo si chiama? Uguale. Sì. Comunque, gli volevo chiedere. Grazie di aver chiamato, Alessio, prego. A consentire l'immigrazione come qua in Italia, anche Israele. Sì. Sì. Poi volevo capire qual è il tuo paese, però, Israele, scusi, o l'Italia? Voglio capire questo, potrebbe però parlare in italiano, cioè mettendo un soggetto, un verbo e un cazzo di complemento oggetto. Poi allora, su tutto il resto signor, possiamo discutere, però inizi con sì, ma metta però, guardi, le dico, è semplice la costruzione della frase, soggetto. Cioè, dice, modifichi il nome, faccia quello che vuoi. Esatto, però soggetto, almeno non violenti la struttura della frase. Soggetto, verbo, allora, complemento oggetto. Penso, esempio, chiedo, Alessio da Pavia è uno stronzo. Frase complessa nel suo insieme, però coerente. Ma ha un soggetto, un verbo, dico anche da dove. Comunque, capito? Cosa ne pensi? Alessio da Pavia è uno stronzo. È una frase costruita di senso compiuto. Ha capito? Okay. Bene, 20:49. Gliela ripeto, gliene faccio un'altra. Alessio da Pavia è davvero uno stronzo. In quel davvero c'è anche un rafforzativo. Mamma, quindi lei può creare delle frasi strutturate in cui c'è sempre un soggetto. Ne vuole un'altra? Ma qual è? L'immigrazione a Israele, come ce la vedi? Ma che c'entra? Allora, la frase che lei ha costruito è la seguente: come te la l'immigrazione vedi? Da Israele, come te la vedi? Le ripeto, una frase di senso compiuto da fare è: Alessio da Pavia è una delle più grandi teste di cazzo che hanno chiamato oggi. Questa è una frase di senso compiuto. Sai cos'è? Che l'immigrato sei tu. In quella terra, che io non la chiamo neanche Israele, perché è una terra araba, ok? Sì. Immigrato sei tu. Alessio, non ho capito. Immigrato dove? Scusa, immigrato dove? In quella terra, Israele. Ma quello sta in Italia. Israele, la conosci? È in Italia, Parenzo, non è in Israele. Israele la conosci. Ma ieri ha detto che ogni tanto Alessio. Ci vale? O mi sbaglio? Ma tu volevi parlare di questo, Alessio? Certo, volevo parlare di questo e chiedergli di cosa ne pensa dell'immigrazione, visto che qua in Italia parla. Che ma lei cosa pensa della grammatica italiana? Non capisco cosa sia. Io ho capito solo una cosa: Alessio da Pavia è italiano di religione ebraica. L'unica cosa chiara di tutta questa cosa è religione ebraica. Non è ebraica, perché io non capisco la differenza. No, lei no, ma lei non capisce tante cose. Si fidi, questa è una minuzia rispetto a tutto il resto. Ci possono essere anche italiani di religione buddista, per esempio, italiani atei. L'altra cosa certa è che ci può essere Alessio da Pavia che è un cretino, che è un'altra cosa certa, ad esempio, provata allora, scientificamente. Come faccio a diventare ebreo? Non può, è troppo stupido. È troppo stupido, non può. C'è proprio una barriera. Ragazzi, Paolo Lecco, Caterina, Paolo da Cremona, Emanuela da Pavia, non lo faccio mai. Tutti a quel se paese. Ci sentiamo domani. Non sentiamo demain. Parenzo, quando vuoi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Come Macron.